notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'allerta meteo si sta spostando in Liguria e dopo la nuova alluvione ad Olbia scoppia la polemica sui lavori mai fatti dal 2013. Nuovo giorno di caos a Roma, ferme la metro A e la B per uno sciopero e due cortei previsti tra la mattina e il pomeriggio. Siria e i russi bombardano un campo di addestramento dell'ISIS, 7 vittime civili, riferisce una ONG. Oggi vertice Putin, Merkel, Hollande. Riforme, ripartono le votazioni, la maggioranza regge, respinta la proposta di modifica per abrogare l'articolo 2. Sequestrati in Puglia impianti fotovoltaici e 16 milioni di euro, coinvolta ancora una volta la cooperativa emiliana CPL Concordia. 2 anni fa il naufragio di Lampedusa con 387 vittime, il racconto di un sopravvissuto e di un pescatore che salvò una dozzina di persone. Tra poco. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il consueto punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Ad Olbia in queste ore si contano i danni dopo la nuova alluvione avvenuta tra ieri mattina e ieri pomeriggio. Come abbiamo raccontato, ad esondare sono stati gli stessi fiumi che uscirono dagli argini 2 anni fa. Da ieri sera c'è un nuovo elemento, sempre 2 anni fa crollò un ponte che per regolamento di protezione civile è stato costruito identico. Ebbene, ieri è stato abbattuto di nuovo perché, in quanto identico al precedente, faceva da tappo e bloccava il deflusso dell'acqua. Tra un attimo sentiremo di nuovo la voce del sindaco di Olbia, Giovannelli. Su questo torneremo dunque più avanti. Andiamo però sul fronte genovese, sul fronte ligure, dove era previsto un peggioramento a partire dalle 12. Un'allerta 1. Andrea Ferro, dai nostri studi, tra l'altro, al Salone Nautico di Genova. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone da Genova. Da mezzogiorno siamo in allerta 1, ma piove già dalle prime ore del mattino. A tratti scrosci violenti con il vento che spazza la costa, i primi disagi nel Savonese, danni a Ceriale, Villanova d'Albenga e a Toirano, tetti scoperchiati, alberi abbattuti. Le avverse condizioni meteo hanno anche condizionato il traffico croceristico. 2 navi della costa, la Fascinosa e la Neo Riviera, sono state dirottate dal porto di Savona a quello di Genova, dove il vento flagella la costa e anche la Fiera del Mare, dove, come dicevi, è in corso il Salone Nautico. Ormeggi rinforzati, ma al momento nessuna conseguenza particolare. In città sono tenuti sotto controllo tutti i torrenti, in particolare nella zona della Val Bisagno. Inaccessibili parchi, la sopraelevata è chiusa alle moto. In Liguria il fronte perturbato è destinato a scatenare i suoi effetti più violenti nelle prossime ore, così prevede la Protezione Civile. Al momento l'allerta 1 resta in vigore fino alle 8 di domattina, poi sulla base dell'evoluzione meteo si deciderà eventualmente l'innalzamento del livello d'allerta. E per il momento da Genova è tutto, ti restituisco la linea. Ti ringrazio, grazie ad Andrea Ferro, col quale eventualmente torneremo a collegarci se ci fossero dei problemi. Intanto sentiamo la voce del sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, che ieri abbiamo sentito in diretta durante le ore dell'emergenza e che questa mattina è intervenuto in conferenza stampa parlando proprio della vicenda del ponte, della quale vi accennavo poco fa. Il ponte non è mai crollato, vorrei partire già con questo, per cui non si parla di ricostruzione di un ponte. Il ponte non è stato mai ricostruito perché il ponte non era mai crollato. Nel 2013 noi registrammo il cedimento di una parte sovrastante il ponte, cioè delle spallette. Questa è la precisazione del sindaco. Più avanti, come vi dicevo, torneremo a parlare di tutto questo e lo faremo con Erasmo D'Angelis, che oggi è il direttore dell'unità, ma fino a poche settimane fa guidava l'unità Italia Sicura di Palazzo Chigi, quella che si occupa proprio del dissesto idrogeologico e della realizzazione di questo tipo di lavori. Veniamo a Roma, dove sono ferme la metro A e la B per uno sciopero del sindacato USB e ancora una volta si prospetta per la capitale una giornata di grande difficoltà con il traffico molto intenso già dalle prime ore di questa mattina. A tutto questo si aggiungono 2 cortei, uno stamattina e uno a partire dalle 17:30. Si trova in uno di questi cortei, ovviamente quello della mattina, il nostro Andrea Viali. Andrea, buongiorno. E così Simone, buongiorno. Con la ripresa dell'anno scolastico sono ripartite anche le proteste degli studenti contro la riforma della scuola che è diventata legge a luglio, e sono alcune centinaia quelli che hanno partecipato alla manifestazione di questa mattina, manifestazione che si è da poco conclusa. Il loro corteo è arrivato sotto il Ministero dell'Istruzione in Viale Trastevere, dove gli studenti hanno scandito slogan contro la riforma. Le norme più contestate erano quelle sui presidi manager e sull'alternanza scuola-lavoro. non ci sono state tensioni, dobbiamo dire i liceali però hanno bloccato Viale Trastevere e ci sono state ovviamente delle ripercussioni anche pesanti sul traffico in una giornata che, come dicevi, da questo punto di vista si prospetta tutt'altro che facile per la capitale. Nel pomeriggio c'è quest'altra manifestazione, quest'altro corteo in centro alle 17, mentre in questo momento è in corso anche lo sciopero dei mezzi pubblici, sciopero che è stato proclamato dal sindacato di base USB, ma ha comunque comportato la chiusura della metro A e B e anche ritardi nelle ferrovie locali. La protesta si concluderà a fine servizio, ma vedrà comunque assicurata la fascia di garanzia che va dalle 17 alle 20. Per ora è tutto, Simone. Grazie Andrea Viali, e di Roma torneremo a parlare anche di Roma nella seconda parte della trasmissione alle 13.35, perché ci sono due vicende che riguardano proprio il trasporto pubblico e l'ATAC. Nella settimana scorsa ci siamo occupati anche delle condizioni nelle quali versano i mezzi pubblici romani. Ebbene, ieri si è staccato uno sportello da un autobus e ha colpito una donna che si trovava in scooter, che tra l'altro è in gravissime condizioni, e poi ci sono state delle sanzioni nei confronti degli autisti per lo sciopero bianco di qualche giorno fa che tanti problemi ha generato. Di questo dunque torneremo a parlare. Nel frattempo vi riferisco le dichiarazioni di questa mattina del presidente della commissione di garanzia sugli scioperi, Roberto Alesse. Dice che la legge sul diritto di sciopero deve essere aggiornata perché i cittadini rischiano di essere ostaggi del sistema. Molta Italia nella prima parte, adesso passiamo all'estero con le cronache dai bombardamenti russi in Siria. La Siria e la tensione internazionale creata dai raid russi saranno oggi al centro della discussione tra i leader del Cremlino, Putin, il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Merkel, in un vertice già previsto per la verifica degli accordi di Minsk sull'Ucraina, che vede anche la partecipazione del presidente ucraino Poroshenko. L'idea che circola negli ambienti diplomatici è che l'iniziativa non concertata con gli occidentali di attaccare in Siria potrebbe rendere la posizione di Putin più morbida sul versante ucraino. E mentre il Pentagono sta valutando se usare la forza militare per proteggere dai raid russi i ribelli anti-Assad, Francia, Germania, Gran Bretagna, Qatar, Arabia Saudita e Turchia, insieme agli stessi Stati Uniti, chiedono alla Russia di concentrare i propri raid in Siria soltanto sull'ISIS. Il timore è che l'intervento russo serva infatti solo a rafforzare il regime di Bashar al-Assad. Nel frattempo, mentre il presidente della Commissione Esteri della Duma russa rivela che i raid dureranno 3 o 4 mesi, anche il leader della Cecenia Kadyrov offre a Putin le sue unità militari per combattere contro l'ISIS, e l'Iraq incoraggia un intervento di Mosca in chiave anticalifato anche sul suo territorio. Dalla Siria, nel frattempo, Mosca annuncia che con i raid di ieri sono stati colpiti 12 obiettivi del sedicente Stato Islamico in tutta la Siria, mentre secondo l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani i jet russi hanno colpito diversi villaggi nel nord-ovest della Siria, provocando almeno altre 7 vittime civili. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come avete sentito, il vertice con Putin, Merkel, Hollande, il presidente ucraino Poroshenko proprio di Ucraina avrebbe dovuto occuparsi, mentre invece probabilmente si occuperà molto di Siria. Che ne sarà della crisi in Ucraina orientale? Ora che Mosca è impegnata su questo fronte, l'analisi di Gigi Donelli. Ucraina orientale e Siria, due mondi distanti, ma almeno per Mosca raccolti in un'unica cornice, non solo perché le basi della Crimea e quella siriana di Latakia, dove fanno capo i Sukhoi russi, distano meno di un'ora di volo. Nello sviluppare l'azione militare in Siria, il Cremlino ha bisogno di una rete di supporto diplomatico internazionale, anche per minimizzare gli interventi esterni che furono devastanti nella crisi afghana. Depotenziare dunque la crisi ucraina nel Donbass significa riaprire canali con l'Europa di cui Putin ha bisogno e togliere armi mediatiche a Washington, che ovviamente soffre il ritorno di Mosca nella regione medio orientale. I media ucraini oggi danno spazio alla richiesta del Cremlino perché a Parigi, in questo che è il quarto incontro in poco più di un anno, ci sia un faccia a faccia con il presidente Poroshenko. Kiev non ha risposto almeno ufficialmente, ma ha ordinato, e lo stesso hanno fatto i separatisti filorussi del Donbass, un ulteriore allontanamento delle armi pesanti dalla linea del fronte. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Riprendono le votazioni sulle riforme costituzionali. Abbiamo in diretta Elisabetta Fiorito per un punto oggi. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, la maggioranza regge anche quest'oggi all'esame dell'Aula del Senato, respinto con 176 no, 120 sì e 4 astenuti, l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 del DDL Boschi, firmato da Andrea Marcucci del PD, era stato poi ritirato e fatto proprio dal Movimento 5 Stelle. Precedentemente il Presidente della Commissione Affari Costituzionali, Anna Finocchiaro, aveva spiegato spiegato che un voto favorevole avrebbe fatto cadere l'intero provvedimento. Ma come abbiamo detto, la maggioranza ha retto. Delle 6 votazioni segrete, poi all'articolo 2, quello sul Senato non elettivo, se ne farà una sola per un emendamento del leghista Roberto Calderoli che chiede il ripristino dell'elezione diretta dei senatori. Altra questione è quella di Pietro Grasso. Il presidente del Senato viene accusato dal Movimento 5 Stelle di aver piegato la Costituzione ad uso e consumo della maggioranza. La risposta di Grasso è secca: ritengo di continuare ad essere imparziale da arbitro. E sul canguro dell'emendamento Cociancic, Grasso risponde che il senatore PD se ne ha assunto tutta la responsabilità. C'è poi un'altra questione ed è quella dell'attacco del PD alla RAI per Luigi Di Maio. 5 Stelle è un grande segno di debolezza, Renzi vuole fare la RAI a sua immagine e somiglianza. Queste ovviamente le parole del vicepresidente della Camera. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Arrivano notizie anche per quel che riguarda la legge di stabilità, o meglio indiscrezioni, perché sarà approvata, come sapete, il 15 di ottobre, quella che un tempo si chiamava finanziaria. L'ipotesi è di mantenere l'esonero contributivo per i nuovi assunti, la decontribuzione per i nuovi assunti a tempo indeterminato, ma dimezzando la soglia annua massima per la decontribuzione da 8.060 a circa 4.000 euro. Questa è un'indiscrezione che è stata pubblicata dall'agenzia Anza, vedremo se verrà confermata nelle prossime ore. Ci spostiamo negli Stati Uniti adesso con la sparatoria di ieri nell'Oregon, nella quale un ragazzo di 26 anni ha aperto il fuoco in un campo uccidendo 10 persone. Avete sentito, ne ha parlato anche Gianluca Nicoletti nella sua trasmissione. Dal 1 gennaio al 1 ottobre ci sono state negli Stati Uniti 294 sparatorie gravi, ossia che hanno coinvolto almeno 4 persone, secondo quanto riporta il sito Shooting Tracker, e ha parlato il presidente Obama. Somehow this has become routine. The reporting is routine. Le sparatorie sono diventate routine, le notizie sulle sparatorie sono diventate routine, così come le nostre reazioni, ma è una tragedia, dice il presidente. Non sono sufficienti le leggi sulle armi, così quasi commosso. Possiamo fare qualcosa per cambiare le cose, ma non posso farlo da solo, senza il Congresso, senza i governatori. Restiamo negli Stati Uniti perché c'è stata una nuova esecuzione ieri. Alfred Prieto, 49enne, originario di El Salvador, era un serial killer. Sulla sua colpevolezza ci sono pochi dubbi, mentre molti ce ne sono stati fino all'ultimo sulla sua salute mentale. Era stato condannato a morte sia in California che in Virginia per gli omicidi di 9 persone compiuti tra il 1988 e il 92. Papa Francesco aveva cercato nei giorni scorsi di intercedere per lui presso il governatore della Virginia con una lettera in cui si chiedeva di commutargli la pena. La terza lettera inviata in pochi giorni dal pontefice per cercare di fermare un'esecuzione. Ma a nulla è valso il suo appello. Come non è servito quello dei legali di Prieto, che avevano avanzato dubbi sul farmaco che sarebbe stato utilizzato per l'iniezione letale, fatto arrivare per l'occasione dal Texas per aggirare il boicottaggio delle case farmaceutiche che non forniscono più uno dei componenti del cocktail letale al sistema giudiziario americano. È stato giustiziato, accusa infine uno degli avvocati, prima che la Corte Suprema esaminasse l'appello per la grazia che era stato presentato per infermità mentale del condannato. L'ultima esecuzione, in Virginia, risaliva al 2013 e fu eseguita con la sedia elettrica. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ancora la cronaca italiana: la Guardia di Finanza ha sequestrato impianti fotovoltaici e conti correnti per 16 milioni a progettisti e rappresentanti di società del settore. L'operazione è stata messa a segno in Puglia ed è coinvolta la cooperativa emiliana CPL Concordia. Daniele Biacchessi. Ecco, ci risiamo. La CPL Concordia è ancora al centro di inchieste giudiziarie. L'ultima, in ordine cronologico, è proprio di questa mattina. La Guardia di Finanza ha eseguito 14 avvisi di garanzia firmati dal GIP di Modena, sequestrando numerosi impianti fotovoltaici in Puglia. Erano tutti intestati a società che operavano per conto della CPL Concordia. Non solo, i finanzieri hanno anche congelato conti correnti per 16 milioni di euro a progettisti e rappresentanti di società operanti nel settore fotovoltaico. La cooperativa è stata già coinvolta nell'inchiesta sulle tangenti per la metanizzazione di Ischia e per la gestione di impianti nei comuni dell'Agro Aversano, per cui si ipotizza un legame con il clan dei Casalesi. Solo pochi giorni fa la Procura di Modena aveva chiesto e ottenuto il giudizio immediato per tutti gli indagati del principale ramo dell'inchiesta CPL. Nell'atto che chiude le indagini e certifica i reati, l'evidenza schiacciante delle prove viene dedotta dalle informative di polizia giudiziaria, dagli accertamenti informatici, dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dagli esiti delle perquisizioni e sequestri eseguiti anche nella sede di Via Grandi a Concordia. I reati ipotizzati vanno dall'associazione a delinquere alla corruzione, dalle false fatturazioni alle dichiarazioni infedeli per creare fondi neri. E siamo allo sport con il calcio, a partire ovviamente dalle italiane di ieri in Europa League, che si sono fatte decisamente valere. Carlo Genta, buongiorno. Ciao Simone. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Triplete o tris, chiamatelo come volete, fatto sta che ieri sono arrivate tre vittorie appunto per le italiane in Europa League. Larga, convincente, splendida quella della Fiorentina in Portogallo sul prato del Belenenses, 4-0 con Giuseppe Rossi, che è tornato al gol dopo 501 giorni di infortuni, di recuperi, di paure. Il Napoli ormai è una macchina che funziona perfettamente anche con il turnover, vince 2-0 sul campo del Legia Varsavia con i gol nel secondo tempo di Martens e quello splendido, meraviglioso, credo il più bel gol della tre giorni europea di Gonzalo Higuaín al 38esimo della ripresa. Dunque molti cambi per Sarri e anche una vittoria in trasferta che mancava per il Napoli tra campionati e coppe varie dal 19 aprile scorso. Col cuore in gol invece la Lazio, 3-2 sul Saint-Étienne in casa, peraltro in rimonta, però missione compiuta. E dunque tris, chiudiamo queste tre giorni europee con quattro vittorie, compresa quella della Juventus, e un disastro che è quello della Roma con il Bate Borisov. Simone. Grazie Carlo Genta, anche questo sarà materiale per tutti i convocati, oggi in diretta dal Salone Nautico di Genova. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi torniamo sui temi dell'alluvione, soprattutto quello che è successo a Olbia, posto in questo momento l'allerta, come vi abbiamo raccontato, è spostata sulla Liguria, per capire un po' meglio che cosa è successo. Traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono, come sempre, Simone Spezia, le notizie principali di oggi. A partire dall'allerta meteo che si sposta in Liguria e a tutte le polemiche che riguardano Olbia dopo i lavori sostanzialmente mai fatti dal 2013. La nuova giornata di caos a Roma, sono ferme la metro A e la B per uno sciopero di un sindacato e due cortei previsti tra la mattina e il pomeriggio. In Siria i russi bombardano un campo di addestramento dell'ISIS, 7 vittime civili, riferisce una ONG. Riforme, sono ripartite le votazioni, la maggioranza a regge, respinta la proposta di modifica per abrogare l'articolo 2. Erasmo D'Angelis, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Direttore dell'unità adesso, ma fino a poche settimane fa a capo dell'unità di missione Italia Sicura di Palazzo Chigi, quella che si occupa in sostanza del dissesto idrogeologico e di gestire gli interventi che servono per contenerlo. Certo. E con te vogliamo parlare proprio del caso di Olbia. Ci sono due punti sui quali si è concentrata la nostra attenzione, si stanno concentrando i riflettori. Il primo è questa regola piuttosto assurda per cui se un ponte è fatto male, come quello sul Rio che poi è esondato, bisogna ricostruirlo sostanzialmente uguale. Ecco, però ti posso dare una notizia. Prego, come no? Ho parlato poco fa con Mauro Grassi, che è il nuovo coordinatore della struttura di missione, che ha ricevuto 10 minuti fa dalla Protezione Civile regionale un'informazione che smentisce il crollo del ponte. Sostanzialmente il ponte non è mai stato ricostruito, il ponte era lì dopo l'alluvione del 2013, non aveva subito danni strutturali e l'intervento del comune si sarebbe limitato al ripristino delle spallette e del guardrail. Quindi insomma, dice oggi, certo, a distanza di 24 ore, dopo che appunto tutti hanno commentato questa vicenda come l'ennesimo scandalo, comunque 24 ore dopo la Protezione Civile regionale ha ufficialmente detto appunto a Mauro Grassi, a Palazzo Chigi, che il ponte c'era. Benissimo. Non è stato ricostruito. Quindi, in ogni caso, comunque è una vicenda È una vicenda assurda. E infatti, io è su questo che ti volevo portare, perché ieri abbiamo avuto nel pieno dell'emergenza in diretta il sindaco e gli abbiamo chiesto ripetutamente come sia possibile che in due anni da quella che è stata una tragedia non si sono allagate quattro case, ci sono state delle vittime, ce ne sono state sei a Olbia e 19 complessivamente in quell'alluvione. Come sia possibile che non si riescano a realizzare due vasche di laminazione per evitare che esondi questo torrente? Ma intanto dobbiamo dire che, insomma, quando piove ed è piovuto tanto su Olbia, in una zona dove l'urbanistica, diciamo, è stata abbastanza così, insomma, è una parola, poi alla fine hanno allargato le dimensioni della città, la città si è espansa con delle progettazioni e delle lottizzazioni che hanno letteralmente massacrato il reticolo idraulico, per cui quando scorre l'acqua gli spazi che avevano il rio Silvietto, il rio San Nicola, oggi sono spazi occupati da ville, villettine, casette, case popolari, quindi interi quartieri sono stati costruiti sul reticolo idraulico, cioè su rii, ruscelli e su questi torrenti. Quindi c'è da dire innanzitutto questo, perché le condizioni di rischio sono oggettive, sono state amplificate da questa urbanistica sbagliata. Certo, insomma, c'è da dire una cosa rispetto al 2013, diciamo così, l'allerta ha funzionato, nel senso il fatto che il sindaco abbia allertato i cittadini, abbia spiegato bene di andare sui piani alti è stato importante, perché due anni fa sono morte. Questo sicuramente. Il piano per l'emergenza ha funzionato, però mi sembra che permanga il problema strutturale. Il problema strutturale, come si risolve il problema strutturale? Ed è davvero la sorpresa amarissima che abbiamo trovato noi lì a Palazzo Chigi, e cioè quando mancano le progettazioni, quando tu non puoi mandare a gara una cassa di espansione perché non c'è il progetto, è evidente che si perde tempo. E quindi il progetto non è mai arrivato. Il progetto non è mai arrivato a Palazzo Chigi? No, i progetti non c'erano. Palazzo Chigi ha messo a disposizione 81 milioni per tutte le opere che servono su Olbia, che sono innanzitutto due casse di espansione sul rio San Nicola, due casse sul rio Sirichetto, più tutta la risistemazione dell'alveo, le spallette lungo il fiume, insomma tutta l'opera di messa in sicurezza, ecco, costa 81 milioni. Tra qualche settimana può andare a gara soltanto un primo straccio di questi 81 milioni per 16 milioni. Perché? Perché sono arrivate finalmente le progettazioni ad essere esecutive, no? Quindi a due anni di distanza. A due anni di distanza. Questa vicenda delle progettazioni è davvero uno scandalo nello scandalo, perché quando noi abbiamo chiesto finalmente, insomma, a tutte le regioni, protezioni civili regionali, autorità di bacino, tirate fuori dal cassetto tutti i progetti per dare più sicurezza a questo paese, ne abbiamo elencati 7.120, quindi c'è un piano nazionale, c'è una pianificazione. Mm-hmm. Peccato che solo l'8-9% di questi 7.120 siano opere progettate. Cioè la grandissima parte o sono titoli o sono fogli di carta o sono, diciamo, studi di fattibilità, ma non sono progetti. Cioè il ritardo del ritardo italiano è esattamente questo, cioè l'incapacità di aver progettato negli anni delle opere che servono anche a salvare vite umane. Io ti ringrazio, grazie a Erasmo D'Angelis, a voi, direttore dell'unità, ex capo dell'unità di missione Italia Sicura. Come avete sentito, il punto è questo: i soldi ci sono, ma i progetti dalle amministrazioni locali non arrivano, ce ne sono solo l'8-9% depositati a Palazzo Chigi. Un altro argomento: due anni fa, il 3 ottobre del 2013, naufragò un barcone a Lampedusa e morirono 368 persone. Non fu la prima, ma senz'altro una delle tragedie dell'immigrazione più gravi nella storia moderna del Mediterraneo. Un evento che diede il via all'operazione Mare Nostrum e indirettamente al cammino verso gli ultimi accordi europei. Ci furono anche dei sopravvissuti e persone che salvarono i migranti che stavano affogando. Il racconto. Erano le 3 del mattino del 3 ottobre 2013, due anni fa, quando una barca partita dalla Libia e diretta a Lampedusa si sbilanciò ed affondò. C'erano 500 persone circa a bordo, ne morirono 368, 155 vennero salvate. Tra loro c'era Tadese Fisascia, 30 anni, eritreo, l'unico sopravvissuto che è rimasto poi in Italia. La barca di Libia, mettiamo di sopra di barca quasi di più 500 persone, però quando arriva a notte alle 2 a Lampedusa, tutte persone ha visto quella luce di Lampedusa. Ho paura, vado quell'altra parte di barca, quella barca di in fondo entra di acqua. La persona tutti entra di acqua. Gli altri superstiti sono andati tutti in Germania, Svezia, Norvegia, a Tadese in ospedale a Palermo, presero forzatamente le impronte digitali, quindi venne identificato e secondo il regolamento di Dublino ha dovuto rimanere in Italia. Ora vive a Roma, presso la comunità di Sant'Egidio. Quella notte di due anni fa, a salvarlo, insieme a altri 11, fu Costantino Baratta, muratore e pescatore siciliano. Mi scivolavano come delle saponette, ecco. Quindi li ho tirati su di peso con la cintura dei pantaloni. Non sapevamo che il barcone si era capovolto ed era in fondo al mare. Vedevamo solo loro a galla, un centinaio di persone lì che tutte che urlavano, che si aggrappavano a tutto quello che li potesse tenere a galla, ecco. E guardavano con gli occhi sgranati, come dire, a me mi lasci. E io poi anche a dirgli state tranquilli che vi prendiamo tutti. Infatti li abbiamo presi tutti, tra noi e le altre imbarcazioni che erano lì vicino. Quella di Lampedusa non fu la prima, ma senz'altro una delle tragedie dell'immigrazione più gravi della storia moderna del Mediterraneo. Un evento che diede il via all'operazione Mare Nostrum, che nei successivi 12 mesi ha salvato la vita a 160.000 migranti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E prosegue e si conclude questa settimana il viaggio di Radio 24 sulle rotte dei migranti ai confini dell'Europa. Domani alle 7.15 l'Euro reportage della frontiera siciliana, dove vi racconteremo lo sbarco avvenuto questa settimana a Catania. Ci sono però importanti novità sulle direttive legate alle procedure di rimpatrio che le autorità italiane hanno incominciato ad implementare da pochi giorni. Il nostro inviato Sergio Nava ne ha parlato con Maria Guia Federico, che è il prefetto di Catania. Dagli ultimi sbarchi è già partita questa ipotesi di lavoro da Catania. Nel momento in cui il migrante ci fa sapere che non ha nessuna intenzione di fare richiesta di asilo, ma che è venuto in Italia e che vuole andare in Europa semplicemente per trovare un lavoro, quindi lo definiamo non più come richiedente asilo ma come immigrato economico, viene ovviamente allontanato dal resto dei richiedenti chiedente asilo e viene inviato ai CIE, centri di identificazione ed espulsione, per essere poi successivamente rimpatriato. C'è anche il tema hotspot di cui si sta parlando molto, l'Europa li chiede o forse anche li pretende in qualche modo da Italia e Grecia. Da quanto ho capito però il territorio catanese non ne sarà interessato? Al momento no, abbiamo già da decidere quella che sarà la destinazione del centro richiedente asilo, il CARA di Mineo, che è il più grande d'Europa. Ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo, torniamo a parlare dell'ATAC, del caos a Roma di oggi, poi dell'acquisto da parte di Unilever di Grom e poi del sinodo che si apre domenica, il sinodo sulla famiglia, è molto importante, a tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Nuova giornata di caos a Roma, ferme la metro A e la B per uno sciopero. Secondo il garante, per i romani si tratta di una media di 2 stop degli autobus al mese. L'allerta meteo si sposta in Liguria, polemiche dopo la nuova alluvione ad Olbia per i lavori mai fatti nel 2013. In Siria i russi bombardano un campo di addestramento dell'ISIS. Riforme, ripartono le votazioni, la maggioranza regge. La borsa. Invesco. Per i tuoi risparmi, investi con noi. Vi presenta... Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Sta facendo discutere in queste ore l'acquisizione della catena di gelaterie italiana Grom da parte della multinazionale dell'alimentare Unilever. Qualcuno denuncia che un altro pezzo di Made in Italy che se ne va. In realtà la guida dell'azienda resterà ai due fondatori, mentre si teme che quello che molti ritengono essere un prodotto artigianale si tramuti in un prodotto industriale. L'analisi di Maria Luisa Pezzali. Artigianale o industriale, local o global, e ancora italiano o straniero? Nella notizia dell'acquisizione di Grom da parte di Unilever le contrapposizioni sono molte e ognuna porta con sé sostenitori e detrattori, lovers ed haters, per dirla in gergo social. Tutte battaglie legittime, per carità, per chi le vuole intraprendere. Il fatto è però che nulla hanno a che vedere con la sostanza di una storia che è pur sempre una storia di impresa e come tale è fatta di conti, piani di crescita, appetiti multinazionali e soprattutto di marketing. È grazie al marketing e a un solido progetto di impresa che un gelato senza dubbio buono, ma sfido ciascuno di noi a non indicarne almeno altri 5 nella propria playlist delle gelaterie preferite, è arrivato ad avere 67 negozi in Italia e nel mondo. Sul fatto che le miscele che partono sotto zero da Mappano, provincia di Torino, verso il resto d'Italia e del mondo per essere poi mantecate nei negozi contraddicano o meno la definizione di artigianale, il Codacons ha avviato una delle battaglie di cui sopra, ma la qualità c'è e la coda fuori dai negozi anche, tanto da aver fatto gola ad un colosso come Unilever, che nella sua storia di gelato artigianale ne ha già mangiato, vedi alla voce Ben & Jerry. Tra le dichiarazioni di queste ore dei fondatori di Grom ne ho sottolineata una: Unilever ci aiuterà in un altro sogno che abbiamo da anni, offrire la stessa qualità che abbiamo nei punti vendita anche in prodotti confezionati. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il Sole 24 Ore. Domenica si apre l'attesissimo sinodo sulla famiglia. C'è il Cardinal Ruini che, mettendo le mani avanti, dice che no, l'eucaristia per i divorziati e risposati non è la strada, neanche con un percorso penitenziale. E il Cardinal Casper che invece propone di valutare caso per caso con misericordia. Il cardinale Müller, che si augura che non si scada in discussioni mediocri, e il cardinal Bagnasco, che promette: i vescovi italiani saranno attenti al popolo di Dio e alle dinamiche di questo tempo, ma liberi dalla logica del mondo. Tutti però concordano su due aspetti. Sarà il Papa in ultima istanza a decidere e tirare le fila di mesi di discussioni? E comunque quella dell'eucaristia ai divorziati risposati, così come la questione delle coppie omosessuali, non sono le sole e le centrali di questo sinodo che sta per entrare nel vivo. La questione centrale, ripetono tutti, è la famiglia, di fronte alle sfide del nostro tempo da sostenere nel difficile percorso che spesso si trova ad affrontare. Il Papa dagli Stati Uniti ha già ribadito l'approccio: no alla tentazione di circoli chiusi, bisogna accogliere, non allontanare, chinandosi a curare le ferite. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Questo è il sinodo, però tra poco, insomma tra un paio di mesi, si apre il giubileo e Roma si trova ad affrontarlo in una situazione sicuramente non facile, in particolare dal lato del trasporto pubblico locale. Come vi abbiamo raccontato, oggi una giornata di caos molto difficile con la metro A e la metro B chiuse, ma ci sono altri elementi come per esempio la manutenzione dei mezzi. Un caso esemplare è quello che è avvenuto ieri, quando si è staccata una porta sostanzialmente di un autobus, ha colpito una donna che si trovava su uno scooter che adesso è gravissima. Saluto Lorenzo De Cicco, giornalista del Messaggero. Buongiorno Lorenzo e benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dai un quadro della situazione dell'ATAC in questo momento? Beh, diciamo, la situazione ovviamente è sotto gli occhi di tutti. Oggi un sindacato che 3% degli iscritti tra i lavoratori dell'ATAC è riuscito a bloccare le prime due linee della metropolitana e la Roma Libera, un'altra importante ferrovia urbana che collega Roma con la periferia e il litorale. Ci sono problemi in tutte le linee. L'unica linea dove invece non c'è stato nessun rallentamento, è la metro C, che non a caso ha dei treni driverless, cioè senza conducente, senza macchinisti. L'unica linea che funziona è quella che non è guidata da dipendenti dell'ATAC. Secondo me ci sono due chiavi di lettura. Sì. Da una parte... Saremo molto interessati a sentirle queste chiavi di lettura di Lorenzo De Cicco, che adesso vediamo se riusciamo a recuperare, perché la linea ci sembra che non vada molto bene. Lorenzo, ci eccomi, sei? Eccomi. Abbiamo perso completamente le chiavi di lettura, quindi se ce le dai, vai. Ok, rimetti. Evidentemente non ci riusciamo, c'è qualche problema tecnico con Lorenzo De Cicco. Allora, intanto facciamo così, vi do un paio di aggiornamenti, magari proveremo a recuperarlo nei prossimi giorni. Questa è l'ultima puntata della settimana di Effetto Giorno, ritorneremo lunedì e sicuramente dei temi dell'ATAC torneremo a parlare. Considerate che in settimana, come vi abbiamo anche raccontato nei nostri servizi, si sono dimessi i vertici, il direttore generale e l'amministratore delegato, in parziale polemica con l'assessore ai trasporti Stefano Esposito per una questione di leasing di nuovi mezzi e di investimenti. Una notizia che arriva dall'Italia di aggiornamento sulla situazione del maltempo, ossia che è cessata l'emergenza ciclone in Gallura e a Logudoro, almeno dal punto di vista meteorologico. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino declassando il livello di criticità da arancione a ordinaria, mentre invece è stata estesa, e questo è quello che vi abbiamo solamente accennato in apertura e che vi diamo per esteso, è stata estesa fino a domani alle 15 l'allerta meteo di livello 1, che è il livello più alto per la Liguria. Speriamo davvero che non succeda niente. Intanto il traffico.